Seiya. Ascolta e rispondi. Questo libro è il vostro? Sì, è il nostro. Questo zaino è il vostro? Sì, è il nostro. Quello scontrino è vostro? Sì, è nostro. Quello strumento musicale è vostro? Sì, è nostro. Quegli stivali sono i vostri? Sì, sono i nostri. Quegli specchi sono i vostri? Sì, sono i nostri. Quegli spaghetti sono vostri? Sì, sono nostri. Quegli sci sono vostri? Sì, sono nostri.